Ma sono così. Allora ci sono queste, basta, perché queste che... Sì, sì, se poi dice che sono rumorose. Oh, mamma, quella lì, questa che... Io che so, io ho le mie cranie a grappolo. Mi curo sempre con la rossi per tirare... E questa mi piaceva, però fa rumore. Sì, sì, non so, cioè quella fa rumore se la tieni attaccata all'orecchio. Questa qui è silenziosissima, è data come silenziosa. No, questa è silenziosa. Sì, quella si sente una... Ma il movimento è digitale, quindi non fa rumore. Ma questa è sull'ora? No, non è sull'ora, insomma, è se... Questa così. Che cosa mi fa l'ultimo pezzo? Siamo alla corte. Possiamo fare 15 euro. Questa è questa? Sì, qua lì possiamo fare 15 euro. E vedete, si controlla da qua, si mette a posto il... No, io devo bisogno... Per l'ora. Devo svegliarmi dal mattino e ho frantumato quella che avevo lì. Sì, sì, sì. Mi mette... non so, lei la sa usare una digitale così, che sono un po' più particolari rispetto a quelle... No, mi insegna però, siccome... Sì, io gliela insegno, però deve poi ritornare a testa. Poi ovviamente ci sono istruzioni nella scatola, però non è semplice come queste, ecco. Una cosa deve schiacciare, deve fare così, deve essere abituata a quelle... No, io nel microondo ho quella suoneria lì, per cui dovrebbe essere... Beh, non è esattamente la stessa cosa. No! Prossima. Allora, mi faccia vedere, via. Allora, mettere l'ora è complicato, no? Per svegliarmi domani mattina alle 6, facciamo un esempio. Allora, aspetti, che glielo faccio vedere su questa, che poi sì, è buona. Mi dà quella lì. Allora, set per impostare la sveglia. Allora, iniziamo a mettere a posto l'ora, che gliela metto a posto io, e siamo a posto. Allora. Sì, però devo vedere. Ah, questa, per sistemarla devi schiacciare set, che è il tasto col mezzo, e inizia a lampeggiare l'ora. Dopodiché schiaccia up e inizia, si sistema su 5, 6, 7. Adesso sono le 5 di tanto. 5. Dopo schiaccia ancora set. Ah, adesso passa sulle 17, perfetto. Mettere la 17 e 18. 17 e 18. Il simbolo della campana, così sa che suona. Cioè se adesso lo lascia così domani mattina suona, è già puntata. Sì, però c'è questo che lampeggia, non va bene. Sì, no, lampeggia fa vedere che... basta, deve lampeggiare. Sì, sì, lampeggia perché fa vedere che sta andando, insomma, che non è bloccata l'ora. No, ma pare che dovrebbe star fermo. No, no. Sicuro di no. Vabbè, dai, lo vedi anche su questo che sta girando. Quando poi suona, la prendi in mano e la... Dove schiaccia? Un tasto qualsiasi e smette di suonare. Allora così è l'ora giusta, in più è già pronta. È già pronta, esatto. Se non schiaccia niente adesso va comunque, va da sé. Allora, sì, sì, qua lì che è nuova, la pila dentro è nuova. Allora, la rimetto qua dentro. Qua comunque ci sono le istruzioni in italiano. Dirò, però, siccome adesso è un appuntamento... di lavoro, poi dal mattino devo dire, cos'è che adesso comincia? Allora si faccia 15 euro. Questa la metto via, eh? Sì, sì, quello. 15. Ecco qua. 3, è questo. Allora, una firma qua. Allora, questa è la carta e la ricevuta è la carta e lo scontrino fiscale. È questo qua. Comunque se arriva a... Oh, io voglio che la prima la penna, che non ce l'ho. No, purtroppo queste cose sono quelle che ho qua. Sono quelle che uso per il negozio, però una grande scorta, purtroppo. Comunque queste qua che mi danno nel negozio.